in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Cominciamo non dalla Francia, perché credo che ne abbiamo sentiti tanti, letti tanti di commenti sulle elezioni e in realtà a questo punto non resta che aspettare il ballottaggio che si avvicina, ma al quale manca ancora una settimana perché sarà domenica prossima il 7 maggio. Quindi lasciamo un attimo da parte la Francia, mi sono tenuta via giusto un parere di un quotidiano tedesco perché forse a volte serve magari vedere, anche perché si è ricominciato a parlare così fortemente di asse franco-tedesco, è forse più utile appunto leggere come ci vedono gli altri dall'esterno, in questo caso come i francesi vedono, come gli tedeschi vedono i francesi dall'esterno. Cominciamo però invece da un'altra questione che riguarda l'Europa e riguarda in particolare l'Ungheria e la Polonia. È un articolo che trovate su Vox Europe, è stato scritto da un giornalista polacco, Wojciech Przybylski, e si intitola «Come ti smonto la democrazia?». È una di quelle questioni, di quelle cose che stanno succedendo lontano dai riflettori ma che dovrebbero far riflettere. Scrive Wojciech Przybylski: «Il 10 aprile il presidente ungherese János Áder ha firmato la legge che permetterà al governo di Budapest di espellere dal paese la Central European University, anche detta CEU. La norma, ribattezzata l'ex CEU, è diventata il simbolo del regime ibrido che vige in Ungheria, una democrazia che scivola sempre di più verso il totalitarismo». Tanto che contro questa decisione del governo circa 80.000 persone hanno manifestato nella capitale il 9 di aprile. Quello che succede a Budapest tuttavia non è un fenomeno isolato ma una tendenza che riguarda altri paesi dell'Europa centro-orientale. Non è la prima volta che si registra un arretramento della democrazia ma è sorprendente notare che due paesi in cui la transizione era stata un successo, Ungheria e Polonia, stanno facendo marcia indietro e stanno diventando regimi ibridi. Sicuramente, aggiungo io, avrete sentito parlare di questa decisione perché questa università è un'università fondata da George Soros, che vige negli Stati Uniti da tantissimo tempo ma è di origini ungheresi e voleva dare un suo contributo al suo paese natale. È un'università che dovrebbe essere il più possibile simile a un'università americana, quindi insegnare e accogliere in totale libertà, e per questo probabilmente dà un po' fastidio al premier ungherese Viktor Orban, che ancora prima di far varare potremmo dire questa legge aveva annunciato che il 2017 sarebbe stato l'anno della cacciata di Soros. Parliamo invece di altre interferenze o comunque di prepotenze, possiamo dire così, politiche. Questo è un articolo che si trova su euobserver.com e si intitola «Interferenze russe». E questo è un po' il riassunto, lo ha scritto Andrew Rettman e anche questo lo trovate all'indirizzo www.voxeurope.eu. Inondando i social network francesi di fake news e sostenendo la leader di estrema destra Marine Le Pen, il Cremlino ha fatto campagna elettorale per i candidati più ostili all'Unione Europea. È sicuramente abbastanza inquietante. Abbiamo sentito molte ipotesi. Io personalmente non sono una dietrologa e faccio fatica a credere che davvero dietro le quinte possano succedere cose, possono essere prese decisioni che poi si traducono in cambiamenti importanti nella società. Però internet è di per sé un mondo che non possiamo controllare e quindi potrebbe in effetti anche essere vero che appunto con tutti i suoi, non necessariamente hacker, ma esperti di computer, dalla Russia ci si sia messi al lavoro per screditare i candidati pro Unione Europea, che quindi sempre secondo alcune analisi politiche non piacciono al Cremlino. Vi dicevo, l'unico commento che vi segnalo sul primo turno delle presidenziali francesi della Frankfurt Allgemeine Zeitung, che il giorno dopo ha titolato «Francia dilaniata». Non si può tirare il fiato, ha scritto la Frankfurt Allgemeine Zeitung, perché oltre il 40% dei francesi ha votato per un candidato di estrema sinistra o di estrema destra, mentre la vittoria di Macron è così risicata che nelle due precedenti elezioni non sarebbe arrivato ai ballottaggi. Le forze moderate consolidati in Europa, che temono che la destra populista possa distruggere l'euro e l'Europa, non possono quindi ancora tirare un sospiro di sollievo. Solo in 2 settimane, sappiamo, questo articolo è apparso all'indomani del primo turno, abbiamo detto adesso mancano 7 giorni, quindi solo in 1 settimana, si saprà se i francesi sono pronti, nella maggioranza dei casi, a percorrere una strada di isolamento e rinazionalizzazione, o se l'Unione Europea avrà altri 5 anni per risolvere i suoi pesantissimi problemi. Passiamo a un argomento un pochino più leggero, perché poi insomma in Italia sappiamo quanto è amato il calcio, quanto se ne discute, e anche di Messi, che chissà, magari un giorno potrebbe anche venire a giocare per la squadra italiana. Comunque il campione argentino che ha avuto una performance, una partita bellissima, non l'ho vista ma ci credo, nella partita Barcellona-Real Madrid, vinta dal Barcellona per 3-2, e quindi tutti i giornali spagnoli sono impazziti. El País titolava Messi incendia al Bernabéu, un altro quotidiano titolava c'è molto Messi nella vittoria del Barcellona. Insomma, in questo siamo veramente molto simili noi spagnoli con gli italiani. Ma poi è una cosa bellissima il calcio, se suscita così tante passioni, a patto naturalmente che non ci siano invece le violenze. Passiamo a un altro argomento di cui continueremo a occuparci, anche perché a proposito di elezioni, l'8 giugno si vota nel Regno Unito e vediamo un po' che segnale arriverà alla Premier Theresa May, che ha voluto queste elezioni anticipate anche per avere, ha detto, un mandato più forte per negoziare la Brexit. Il Daily Telegraph ha anticipato che tra le tante leggi sul tavolo che ci sono, alle quali fino ad ora il Regno Unito, essendo membro dell'Unione Europea, aveva dovuto aderire in modo assoluto e che invece adesso potrebbe essere ridiscussa, c'è quella sui diritti umani, ma secondo il Daily Telegraph quella parte di legislazione Unione Europea sarà mantenuta tale e quale. È una specie di, viene vista anche come una specie di apertura di Theresa May per rendere questi negoziati, che si annunciano molto complicati con l'Unione Europea per appunto stabilire il percorso esatto della Brexit, per renderli un pochino meno a muso duro, ecco, uno contro l'altro, senza davvero cercare di arrivare a quella che proprio gli inglesi chiamano una win-win situation, dove comunque, o almeno non una lost-lost, dove visto che gli inglesi, la maggior parte degli abitanti del Regno Unito, hanno voluto la Brexit, cercando appunto di negoziare i termini che non distruggano né il Regno Unito, distruggano naturalmente un termine molto forte, ma che insomma arrechino il meno danno possibile al Regno Unito, che in realtà crede di aver chissà che vantaggi, almeno chi ha votato la Brexit, e dall'altra parte l'Unione Europea. Vi segnalo invece un articolo che parla di noi, parla di altre elezioni molto meno importanti di quelle che si terranno l'8 giugno nel Regno Unito, o naturalmente del secondo turno delle presidenziali francesi. Mi riferisco alle primarie del Partito Democratico, che sono in programma per domani. Financial Times si è occupato di questo. Financial Times ha seguito, segue del resto con interesse la politica italiana, ha seguito con interesse e continua a seguire l'ascesa e anche la forza del Movimento 5 Stelle, ma ha seguito anche il percorso di Matteo Renzi, che per un periodo è stato il più giovane premier europeo. Adesso può darsi che Macron, se come molti pensano vincerà il secondo turno, scalzerà Matteo Renzi da questo record, a parte che Matteo Renzi non è neanche più premier, ma potrebbe ridiventarlo. In ogni caso, Financial Times scrive: Matteo Renzi sta andando a velocità di crociera verso la vittoria nella gara per guidare il Partito Democratico, ma è tutt'altro che certo che l'ex premier possa usare questo slancio per un successo alle elezioni generali e schiacciare così le aspirazioni dell'anti-establishment Movimento 5 Stelle. Perché sapete che in teoria la nostra legislatura va in scadenza all'inizio del 2018, però potrebbero anche esserci anche da noi elezioni anticipate. Un ultimo articolo ve lo segnalo da Internazionale, che si occupa invece di una consultazione che è ormai chiusa e di cui abbiamo un risultato certo, che è il referendum che si è tenuto il 16 aprile in Turchia. Ijan Karalan, un giornalista della rivista Evrensel turca, dice, la definisce la vittoria al referendum una vittoria a metà. Il 16 aprile in Turchia si è svolto un referendum popolare per approvare modifiche costituzionali che trasformeranno il paese, e già qui il parere è molto forte, nel regime di un uomo solo. Ha vinto il sì a questo referendum con il 51,3%, quindi proprio di misura, e da qui la conclusione che la vittoria del sì non è neanche, secondo questo giornalista, una vittoria di Pirro. Le questioni emerse con il referendum possono rappresentare un'opportunità di rilancio per il fronte del no e per le forze progressiste. E speriamo, insomma, in Turchia sembra davvero esserci un deficit di democrazia in questo momento. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli, appuntamento a domani se volete alle 7:10, 7:15 per i quotidiani italiani.